lavoro di non andremo. Oggi do bene procede. Oggi do bene procede. Premendo, sfidendo, l'ode se l'ode vuole sentire. Di dorme profonda agita da mente procede la deseno del mare sendo la deseno del mare sendo. Salito da pieno di pole, turbato, agitato, sospira, s'aggira, e c'è posso ritrovar più riposo, ritrovar più riposo, trovar più lo sa, e c'è posso ritrovar più riposo, ritrovar più riposo, trovar più. Oh,